בלו טיים. בלו טיים. בלו טיים. Serate di festa, serate di compagnia anche con Blu Radio Veneto. Bentrovati da Mirko Cavallin in studio, Eddie Dai c'è la parte tecnica e con me questa sera e anche con voi due ospiti ma che rappresentano una realtà molto più ampia e interessante da conoscere. È l'associazione Ombre di Luna che è rappresentata qui da Sara e da Ezio. Benvenuti a entrambi. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ciao Ezio e ciao Sara, ci daremo del tu perché nel frattempo ci siamo conosciuti. Con Sara ci conosciamo già da molto più tempo, Ezio per la prima volta in uno studio radiofonico per parlare di questa associazione che conosceremo anche attraverso, anzi soprattutto attraverso la loro musica e le loro voci. Questo per introdurci e poi ne parliamo è un brano che si intitola Il mercato dei sogni. In un posto così che mai visto, no, no. Si respira magia, un incanto, non so. È un mondo che ti prende di profumi e colori. È una giostra strabiliante di sogni e d'amori. Noi siamo povere ancelle, sol sognare possiamo. Ma i sogni alle stelle portare sappiamo. Forse qua giù dove ridono e danzano le persone, le cose, noi troveremo in mezzo alla sabbia carnosa le nostre rose. Forse qua giù dove canta anche il vento un duetto con la fortuna, parleranno i nostri cuori di baci e carezze sotto la luna. Sì. Le note da Il mercato dei sogni, realizzazione dell'associazione Ombre di Luna. Cerchiamo di capirci qualcosa di più. Allora, Ezio, che cos'è Ombre di Luna? Chi è Ombre di Luna? Ombre di Luna è un'associazione di promozione sociale nata nel 2008 per diffondere le arti di scena come la recitazione, il canto e la danza fra le persone con minorazione visiva, e questa associazione favorisce anche l'integrazione fra persone appunto non vedenti e ipovedenti e persone normodotate che desiderano avvicinarsi al teatro. Teatro che è anche musica, come abbiamo sentito. Dici due parole su questo mercato dei sogni. Beh, questo è uno spettacolo nato praticamente per gioco, perché ci trovavamo in una vacanza estiva, una settimana in montagna in Trentino, in Val di Sole, e così per riempire anche le nostre giornate fra le varie attività avevamo inserito anche un laboratorio teatrale animato dalla nostra Sara, che ha cominciato ad insegnarci la dizione, la recitazione, ed è nato questo spettacolino che durava in origine 7-8 minuti, in cui le persone tutte non vedenti stavano sedute, perché era nata praticamente come una cosa praticamente radiofonica, no? Anche se poi in realtà l'abbiamo rappresentato in pubblico, ma non c'era il tempo di inserire tutta la gestualità di cui poi parleremo, e quindi c'erano tutte questi personaggi seduti che recitavano su un sottofondo musicale suonato da me al pianoforte, ed era un brano di Albert Kettleby dal titolo Il mercato dei sogni, su cui Sara aveva scritto un copione. Terminato lo spettacolo che abbiamo rappresentato l'ultimo giorno di vacanza davanti al pubblico, tutti i partecipanti hanno cominciato a dire: ma perché non proviamo ad ampliarlo e lo rendiamo più teatrale? al che a Sara sono cadute le braccia, ma poi stringendo i denti ha scritto un copione che da 8 minuti, con tutte le canzoni, perché poi si è trasformato in un musical, ha raggiunto la durata di 1 ora e 15, 1 ora e 20, mettendo insieme vari talenti. Ezio si è già così svelato appunto come musicista, Sara come scrittrice e anche organizzatrice, insomma, più in generale di questo spettacolo. Poi ne conosceremo anche altri nel corso di questa storia che ormai va avanti da 5 anni. Voi vi definite nel volantino un gruppo nato per sogno e per magia. Cosa vuol dire, Sara? Beh, vuol dire quello che ha detto Ezio adesso. In effetti è stata una grande magia, cioè quando è successa questa cosa in vacanza che nessuno si aspettava, è stato un momento magico. Nessuno di noi, io per prima, credeva che sarebbe stato così bello. Il sogno è arrivato dopo questa magia, ed è diventato magia il sogno stesso. Cioè, capisco che sia un po' un gioco di parole, però noi siamo andati avanti a sognare il momento in cui saremmo arrivati effettivamente sul palcoscenico. E dato che in questo gruppo sono successe delle cose molto forti, abbiamo vissuto delle esperienze molto forti, e vorrei dirlo subito che tutto il nostro lavoro teatrale, il nostro impegno è dedicato ad Andrea Porrozzi, che è ancora uno di noi, nonostante ci abbia lasciato per malattia pochi mesi prima del debutto. Ecco che il sogno e la magia sono diventati realtà, perché noi abbiamo voluto portare avanti questo primo spettacolo anche per lui. E quindi questo sogno, questa cosa, questa magia che si è creata, poi invece che scemare come avremmo potuto credere, è proseguita, è andata avanti ed è ancora qui viva come prima. E quindi è questo per noi la cosa più magica che è successa, è questa, e non succede spesso nei gruppi dilettantistici come il nostro. Certo che magari poi ci si perde per strada, invece vedo che la spinta continua. Ezio diceva prima si mettono insieme persone non vedenti o con, diciamo, delle limitazioni fisiche, insieme a persone che invece, diciamo, sono normodotate, usando questa definizione un po' fredda, però per far capire. E in questo senso si parla, voi stessi avete parlato, di arte accessibile. Cosa vuol dire? Esattamente. Beh, allora, è una bella domanda, me lo sto chiedendo ancora anch'io. Credo, molto ironicamente parlando, che voglia dire quell'arte che possono fare appunto anche i portatori di handicap, siano essi non vedenti come nel nostro caso, ipoacusici oppure su una sedia a rotelle. Ipoacusici, traduciamo. Per gli addetti ai lavori? Sordi, o comunque che ci sentono poco, quindi con difficoltà uditive. In realtà l'arte accessibile, appunto, credo che intendano questo, il fatto che si possa adattare un copione o una scena anche a chi ha dei problemi, ma l'arte alla fine è arte, cioè l'accessibile è certo renderla fruibile anche da noi, avere la voglia di mettersi in gioco e, come abbiamo sempre detto noi, di giocare. Quindi tutta questa cosa dell'arte accessibile, l'arte appunto è di tutti, la può fare chiunque, sia con che senza disabilità. Ovviamente ci sono degli stratagemmi, dei trucchi, c'è dello studio anche molto serio dietro, c'è un lavoro sodo che abbiamo fatto per anni, abbiamo dovuto imparare a misurarci certo con i nostri limiti, ma non sono soltanto i limiti visivi che abbiamo noi, i limiti li abbiamo tutti, cioè chiunque si trovi poi su un palcoscenico molte volte ammutolisce. Ti è mai capitato nella vita di avere a che fare con una persona spiritosissima e tu dici: ah, quello lì sul palcoscenico sarebbe eccezionale, poi ci prova e fa tipo il pesce, si sì, non spiccica una parola. Invece noi abbiamo visto gente timidissima che aveva delle difficoltà enormi anche ad esprimersi così a livello interpersonale, piano piano si sono come svegliati da una sorta di torpore e attraverso il teatro hanno cominciato a ritrovare la loro parte bambina. Perché poi in realtà il mio maestro, il grande Pierluigi Zollo, diceva sempre che recitare in fondo è fingere, e basta tornare bambini, ricordarsi di quando si giocava da piccoli e il teatro è fatto. Noi abbiamo sempre cercato di mettere in pratica sta cosa. Ecco perché si è reso tutto accessibile, mi spiego, cioè ecco perché l'arte, che è già una magia di suo, è diventata anche per noi, è diventata per tutti, ed è stato anche molto più facile di quello che qualcuno potrebbe pensare, pensando ad un gruppo di non vedenti sul palcoscenico. E a proposito di questo tema, Sara, abbiamo cambiato anche note di sottofondo. Questo è un brano di Mozart suonato da una persona non a caso, perché nel vostro gruppo in Ombra di Luna ci sono anche due artisti con deficit uditivi. Oltre alla questione di non vederci, ci sono anche quelli che non ci sentono, e sono un attore e una pianista. La pianista Annalisa Laera è al telefono con noi. Ciao Annalisa. Ciao a tutti. Allora, cosa vuol dire, com'è possibile non vedere, perché tu nemmeno ci vedi, ma anche sentire poco, suonare il pianoforte? Intanto ti chiedo, quando hai cominciato a suonare il pianoforte? Io ho cominciato verso i 5-6 anni, così come gioco. Mio padre, che è amante della musica, mi ha visto insomma attratta dalla musica, dal pianoforte in particolare, e me lo ricordo ancora adesso quando mi chiede: ma Annalisa, vuoi provare a studiare il pianoforte? Così. E io, con tanto entusiasmo, ho detto sì, e quindi c'era per cominciare c'era un amico di famiglia, maestro di musica, vedente, che ha provato appunto a insegnarmi la musica, però dal punto di vista in nero, perché ancora ero più vedente verso 5-6 anni. Sì. Però ho visto che avevo difficoltà appunto con la musica nera, perché non vedevo bene, e da lì ho cominciato con una maestra non vedente che mi ha insegnato l'alfabeto Braille insieme all'alfabeto musicale, e quindi da lì ho imparato a leggere la musica, a studiare, a suonare. Ovviamente i concerti. Certo, chiaramente, siccome le mani sono impegnate a suonare, non puoi usare le mani per leggere, quindi devi imparare tutto a memoria, immagino. Infatti, sì, con la mano, non so, mi leggo una mano per volta, quindi la mano destra la leggo con la mano sinistra e la memorizzo, poi faccio viceversa, e dopodiché a memoria unisco le due mani, e poi si gioca con la tecnica, con i colori, con l'espressività della musica e così via. Ecco, e suonare in un evento, suonare a casa è un conto, suonare con l'insegnante è un altro conto, suonare durante un evento live, durante uno spettacolo, è ancora un'altra cosa. Cosa hai provato la prima volta? Guarda, è come, diciamo, quando suono vengo come portata in un altro mondo, e poi cerco di comunicare sia con il pubblico che con la musica, e per me ogni nota che eseguivo è come un colore. Infatti i colori me li ricordo, ed era come se dipingessi sul momento un quadro, praticamente. E giocavo molto con i suoni, i pianoforti, l'espressività e insomma, cercare di giocare con la musica. Ecco, anche la musica si dice che ha dei colori, ma tu prova a farci degli esempi, cioè ad esempio, non lo so, il rosso a cosa ti corrisponde piuttosto che il blu o il giallo? E hai il rosso forte, hai i forti, e magari il rosa o l'azzurro chiaro, ha le sfumature dolci e molto sussurrate. Per esempio in Scarlatti ho visto tanti effetti di prima tastiera, quindi forte, e seconda tastiera era come se fosse un altro pianoforte in un'altra stanza che suonava con gli stessi colori, ma più sussurrate da lontano. Per i non esperti, Scarlatti è un autore musicale, non è un colore, cioè è anche un colore, ma è un autore. Domenico Scarlatti è un clavicembalista. Certo, è un musicista. Sì. Annalisa, come ti trovi a collaborare con questo gruppo di pazzi, come loro si sono definiti, Ombre di Luna? È stato fantastico, ricomincerai anche subito. E comunque ad ogni spettacolo poi provavo anche un'emozione veramente speciale, e infatti sia dentro di me che nell'aria sentivo sempre una magia che secondo me provano solo gli artisti, ed è indescrivibile, spaventevole e stupenda, scusate. E quindi vabbè, condividere questo con altri è veramente con amici che poi diventavano sempre più amici col tempo che passava tra di noi, e questo mi faceva sentire anche molto più sicura, anche perché magari mi davano anche una mano i miei compagni di scena, a trasmettermi magari quei segnali che non sentivo per partire, così che potevamo evitare errori o buchi. Si rideva anche tanto alla fine, quando perché di pasticci ne facevamo tutti. Annalisa, allora noi ti ringraziamo, ti facciamo tanti auguri di buone feste, di buon 2014 e ci lasciamo con ancora con le note di Mozart da te suonate. Grazie e buon tutto. Grazie a tutti. E da queste note di Mozart suonate da Annalisa, che abbiamo sentito poco fa, torniamo in studio con Ezio e Sara per parlare dell'associazione Ombre di Luna, della loro attività artistica, ormai 5 anni di carriera, possiamo dire così. Ovviamente però, come diceva Sara prima, ci sono molte prove, c'è molto lavoro di preparazione prima di mettere in scena gli spettacoli. Ci sono le prove che, certo, Ezio, sono impegnative, perché è chiaro, le prove servono appunto per verificare le cose, però sono anche occasione di divertimento. Hai qualche aneddoto da raccontarci o da svelare? Ma sicuramente. Qui devo premettere, entra in gioco una componente importantissima per noi, e guai se non ci fosse, la nostra autoironia, cioè la capacità di ridere e di scherzare su situazioni che capitano a noi che non vediamo. E chi non ci conosce o entra in contatto con noi per la prima volta magari non può capire inizialmente questi nostri atteggiamenti, che sono esattamente l'opposto del piangerci addosso. Ma facciamo subito un esempio, proviamo ad immaginare questa scena. Un giorno di prove, eravamo lì sul palco tutti concentrati perché dovevamo fare un filato, e quindi lì doveva andare tutto liscio dall'inizio alla fine, eravamo tutti calati nelle nostre parti, nei nostri personaggi, quando ad un certo punto una nostra compagna termina di recitare le sue battute, presa dall'entusiasmo parte per uscire dal palco, parte quindi dal centro del palco, si dirige verso la quinta e boom, ci si stampa addosso in pieno, la quinta cade giù, fa un frastuono indiavolato che produce un rimbombo per tutta la stanza, era una palestra, per cui vi lascio immaginare il botto che ha fatto, e sul momento attimo di panico, poi però quando abbiamo capito che nessuno si era fatto male è partita la risata liberatoria. E chi è stata la prima a ridere? Proprio lei, che era andata a sbattere. Per non parlare poi di quello che succedeva con la gestualità, mamma mia, cose dell'altro mondo. Dunque, bisogna naturalmente dire a chi ci sta ascoltando che la gestualità, per chi non vede, non è un qualcosa di intrinseco, un qualcosa che avviene naturalmente. Però potete ben immaginare che un attore in mezzo al palco che recita benissimo, però sta fermo impalato, di certo non è un bello spettacolo da vedere. E quindi Erika e Mary, rispettivamente la nostra regista e la nostra insegnante di portamento, ci hanno proprio presi per mano per farci sentire tutti i movimenti uno per uno, finché a forza di provare e riprovare li abbiamo memorizzati e imparati correttamente. Ma proprio perché la gestualità non fa parte della nostra vita quotidiana, poteva succedere che qualche volta un gesto ce lo dimenticavamo o involontariamente veniva modificato. Ad esempio? Adesso ci arrivo. Perché poi durante le prove poteva appunto capitare che un gesto che doveva essere bello, pulito e raffinato si trasformava in un gestaccio e le nostre docenti prontamente ci bloccavano, perché si divertivano a loro volta chiaramente, ma non potevano permettere che i loro pupilli si presentassero al pubblico facendo un dito medio invece che un ok. ecco. Però poi queste situazioni per noi diventavano fonte di scherzo e di ilarità, e vi posso assicurare che anche le persone, chiamiamole normodotate, che hanno collaborato con noi, hanno imparato subito, dopo un primo imbarazzo iniziale che è comprensibile, ma hanno imparato a ridere delle stesse cose di cui ridevamo noi. Sara, ne hai anche tu da raccontare? Ma è successo una volta, per esempio, che una delle nostre accompagnatrici è andata a cercare una nostra compagna e quella è andata in bagno, ma era con la luce spenta. Quindi, quando questa persona vedente è arrivata in bagno, ha chiamato il nome di questa ragazza, perché appunto non sapeva dov'era, ce l'aveva a un centimetro dalla faccia e quella le ha detto «Sono qui!» e quindi ha sentito l'urlo provenire dal bagno e noi abbiamo capito cosa era successo. Ovviamente non si faceva altro che ridere. Oppure è successo che uno dei nostri attori stava cercando degli attrezzi di scena ed è incappato giusto nei panini che stavano sul termosifone pronti per l'ora di pranzo. Quindi è arrivato in scena col panino perché ha detto «Io non ho trovato quello che cercavo, ho trovato questo». Esatto. Arrangiatevi con questo. Beh, insomma, retroscena interessanti che fanno sorridere. Torniamo alla musica. Abbiamo esordito Ezio con Il mercato dei sogni e sempre da quello spettacolo arriviamo a sentire Il pozzo della fortuna e ti coinvolgo come principe Kefrem. È certo, perché la cantavo quella canzone, è una canzone stupenda e voglio ricordare che quasi tutte le canzoni, se non ricordo male, sono 11 canzoni, di cui 9 sono state scritte dal nostro compagno d'arte Gianni Binetti, musicista non vedente, che ha appunto musicato quasi tutto lo spettacolo. Questa canzone è davvero molto bella, anche molto difficile da cantare, E alla fine però con un po' di magia ce l'abbiamo fatta. Esiste un posto là oltre le dune, speciale la luna vi si bagna, di quel luogo incantato conosco la fama, ma è triste il mio segreto, triste e senza soluzione. S'addensa nel mio cuore una nebbia e tremano, tremano le mie mani. Vieni al pozzo della luna, un raggio già ci chiama, mi perderò nella voce di questo eterno canto, c'è l'anima e c'è la musica allegro del vento. Nel silenzio giocan fate e streghe, sottovoce pregan re e regine. Se vuoi dirlo al cuore che può volare, se tu amico credi alla magia, in quel pozzo fondo c'è una grande luna che questa notte scura cambierà. Erano le note di Il pozzo della fortuna dallo spettacolo Il mercato dei sogni dell'associazione Ombre di Luna. Sara e Ezio l'abbiamo sentito, riconosciuto, ma c'era qualcun altro dentro? Sì, c'era Thomas Rossetto che nel musical, nel mercato dei sogni, faceva la parte di Ali, il classico personaggio, sai, un po' impiccione, quello che sa tutto di tutti, il burlone della situazione, e cantava lui questa canzone con il principe. Che frame. Ezio, Sherazad sei tu in questo spettacolo che prevede anche un dialogo d'amore. A voi. Khadija mi ha detto di venire qui al pozzo della luna a mezzanotte, ma mio fratello Nair mi ha strappato la stessa promessa. Ma quale trama staranno tessendo tutti loro? E che ci importa? Farci incontrare qui soltanto per un batter d'ali, perché io possa guardarti in viso e stringerti per una notte soltanto. Ah, tu non sarai il respiro che mi tiene viva, perché sarò morta dentro. Io non ti sognerò ogni notte, perché l'oscurità esige le parole che fino a ora han salvato questa mia inutile vita. Sarò tua se lo vuoi, ora e fino alla fine del tempo. Ma il mattino che aspetta là, oltre quelle dune, non mi vedrà viva. Tu sei la sola canzone che il mio cuore conosce da sempre. Io ti canterò stanotte mentre sciolgo il mio con il tuo respiro. Poi sarà il regno del silenzio ad accoglierci tra le sue ombre. Oh, che fremo! Erano le note di Oltre l'addio, il terzo brano che abbiamo ascoltato da Il mercato dei sogni, spettacolo scritto interamente da Sara, del quale però Sara alla fine non abbiamo detto la storia in sintesi. Abbiamo capito che c'è un'ambientazione orientaleggiante, questo sì, però... Sì, siamo nell'oasi di Mavash, in mezzo al deserto, un'oasi ovviamente immaginaria, dove ci rifacciamo alle avventure delle Mille e una notte, quindi Sherazad, appunto interpretata da me, che vive questa storia d'amore appassionata con il principe Kefrem, che all'inizio si spaccia per un volgarissimo suonatore di flauto del popolo, che poi appunto si rivela un principe. Per cui abbiamo principi, principesse. Pensa, ne avevamo tre addirittura di principi, li abbiamo presi in sconto quella volta. Principessa, le ancelle, amici di corte, abbiamo l'amica del cuore, abbiamo la maga, la Sibilla, che tutto vede e niente sa, perché alla fine ha pasticciato lei più degli altri in questo copione. E questa storia d'amore è ovviamente ostacolata dal cattivo, che è il sultano, che non si vede mai, però insomma fa soffrire tutti quanti, che però alla fine avrà il suo lieto fine, per cui tra pozioni magiche, gente che corre da tutte le parti, cammelli, tappeti volanti, si risolve tutto in una notte nel deserto, appunto al pozzo della fortuna, e l'amore trionfa. Era il 2009, poi ovviamente i lavori, le idee sono venute avanti con altre collaborazioni. Ad esempio nel 2011 avete messo in scena due cose, Mi chiamo Luna e poi La vera storia di Santa Lucia. Partiamo dalla Luna, che ti identifica probabilmente. Beh, forse perché tu mi conosci un po' lunatica, magari. Mi chiamo Luna, sì, è stato, anche questo è un mio testo, è nato così per scherzo. Ed è un lavoro che abbiamo realizzato insieme all'associazione Singer Melody di Fiera, che è diretta dal soprano Michela Galeotti. In realtà anche La vera storia di Santa Lucia ha fatto parte di quello spettacolo. Mi chiamo Luna è la storia proprio della Luna, che un bel giorno, anzi una bella notte, decide di scendere sulla Terra per fare il varietà. Per cui in cielo è scompiglio, non ti dico, le stelline tutte impazzite, e in particolare Sirio, che è la prima stella regale dell'est in ordine di successione, no? al trono dopo la Luna, prima cerca di dissuadere Luna, poi capisce che non ci riesce, per cui la sottopone ad un provino. Per cui Luna si misura con tutte le arti teatrali possibili e immaginabili, ne combina una dietro l'altra finché alla fine, insomma, in effetti supera questo provino, potrebbe scendere sulla Terra, ma poi decide di non farlo perché le sue responsabilità la tengono in cielo, ed è giusto che sia così, perché gli esseri umani si aspettano che la Luna rimanga la Luna. Quindi questa è un po' la storia molto divertente di questo copione. E questo è il brano omonimo. Il mondo dice che più magica di me non c'è nessuna, proprio nessuna. Della notte son regina, io comando la fortuna, sono la fata dagli abiti d'argento. Faccio volare i sogni, placo ogni tormento. Io mi specchio nei sospiri dell'amore e poi canto e incanto con la voce del mio cuore. Sono bella e un po' bambina, molto mamma e sbarazzina, donna e ninfa. Non ce n'è proprio nessuna, come artista mi presento questa sera. Io mi chiamo Luna, eccomi qua. Ogni notte nel mio blu inizia il ballo delle cose, danza l'onda con il vento, girano le stelle in concerto con i grilli. Il deserto canta e svela l'eco del suo tempo. Fiori e foglie agitano, mani muovono fianchi. Ogni essere che vive della terra, d'acqua ed aria, a me lancia il suo richiamo. Luna. E per l'uomo che è mortale, son la musa, io son l'amica. Sono il cuore a cui dire tutto quello che fa male, a cui da affidare i sogni e l'amore. Nel mio grembo stan segreti, grida lacrime e sorrisi. Di quassù io tutto vedo nello specchio dei destini, e poi canto e incanto con la voce del mio cuore. Il mondo dice che speciale come me non ci sia nessuna, proprio nessuna. Io lo so, ho gran fortuna, sono giovane immortale, ho anche un bel nome, mi presento, io mi chiamo Luna, eccomi qua. Mi chiamo Luna con l'associazione Ombre di Luna, sembra quasi un gioco di parole. In nostra compagnia questa sera Sara ed Ezio, ma rappresentano ovviamente tutta una rete di amici, di collaborazioni importanti. Questa era con la collaborazione anche con la Singers Melody di Fiera di Treviso, diretta da Michela Galeotti. E già citavamo prima, Sara, l'altra realizzazione del 2011 che si intitola La vera storia di Santa Lucia. Sì, ecco, aggiungo solo una cosa, Mi chiamo Luna è stata musicata dal fratello di Ezio, Mauro Costantini. Tutti musicisti. Cioè. Tutti musicisti, ci tengo a dirlo perché ovviamente sono state delle collaborazioni preziose, perché poi siamo diventati tutti amici, ecco, anche questa è una cosa bella. La vera storia di Santa Lucia, beh, ci rifacciamo ovviamente alla storia della santa protettrice della vista, quindi la nostra patrona. In questa storia siamo andati a scomodare addirittura il paradiso, lo abbiamo reso un luogo per noi ovviamente pieno di santi e beati, diciamo, originali. Vero Ezio? Tu che santo eri? Io ero San Carlo e ho fatto morire tutto il teatro dal ridere quando sono apparso in scena col sacchetto delle patatine in mano. Poi ho vestito anche i panni dell'asinello di Santa Lucia in tuta grigia. In testa un bel cappellino con le orecchie belle lunghe, la coda appiccicata ai pantaloni della tuta, e per l'occasione ho anche imparato a ragliare. Ah, insomma, c'è anche del comico dentro. Beh, no? C'era Santa Barbara con l'idrante in mano, no? La protettrice dei pompieri. Vigili del fuoco, certo. San Camillo con la padella e la siringa, per cui poi c'era Sant'Onorè. Ma ne avevamo veramente di tutti i tipi di santi. E qui era l'arrivo di Santa Lucia, ovviamente in paradiso, accolta da tutti questi santi simpaticissimi. Tutti insieme cantavano e facevano festa, e lì San Pietro, che era Thomas Rossetto vestito, sembrava il Gabibbo per dire la verità perché era tutto rosso, le affidava il compito speciale di portare i regali ai bambini nella notte del 13 dicembre, come accade in molte città. Qui a Treviso non si festeggia Santa Lucia, ma in altre città sì, e i bambini l'aspettano come qui aspettano Babbo Natale e la Befana. O in altre zone Santa Claus, San Nicola, San Nicolò. La canzone principale di questa favola è stata scritta sempre da te, musicata però da un altro musicista. Sì, è il maestro Paolo Pesce, ed è stata cantata per questa occasione dai bambini del corso, appunto, dei bei piccoli della Singer Melody. Quindi l'abbiamo registrata proprio con loro. Lucia, stella dei bambini. Sua guida assai speciale è un asinello allegro che cantando vola. Nelle case che fermento ogni bimbo scrive attento una bella letterina a Lucia. Splendore di una luce santa, Lucia stella. Lucia Stella dei Bambini con l'associazione Ombre di Luna, spettacolo del 2011. Abbiamo fatto un cenno alle diverse arti, alla gestualità, allo stare appunto sul palco dei teatri spesso ci sono anche le danze, appunto il ballo, e una delle collaborazioni che avete instaurato è proprio questa con le danzatrici vedenti, ma in alcuni casi siete anche voi a muovervi. Sara. Sì, abbiamo imparato. Beh, io ho fatto qualche anno di danza quando ero piccola e questo mi ha aiutato moltissimo, ma altre di noi non avevano mai mosso un passo di danza, per cui è stato certamente difficile, però anche molto bello intrecciare queste collaborazioni e imparare a fare delle cose nuove. Danzare non è facile per chi non vede, perché perdi in continuazione la posizione, e allora anche lì sono entrate in gioco tutta una serie di strategie, quindi di contatto anche molto fisico, no? Tra noi e le danzatrici vedenti, che ci hanno permesso di non perderci sul palcoscenico, che può diventare grande come una piazza in certi momenti. E se posso citare un momento, le ragazze che hanno fatto questo percorso con noi, che è un percorso di crescita reciproca, sì, credo. Certamente. Abbiamo cominciato con Francesca Calloni e con Tamina Danza. Lei ha partecipato al Mercato dei Sogni facendo delle danze in stile orientale. Poi sono entrate nel gruppo Carla Povellato e Sueño Sison, che si sono occupate invece di danze gitane. Poi abbiamo avuto Elisa Romeo, che con un paio di sue allieve, Isabella Sibao e Dania Stival, hanno fatto le stelline in Mi chiamo Luna, e anche un pezzo di origine celtica, perché abbiamo fatto anche poi delle rappresentazioni etniche, spettacoli appunto sul ciclo della vita femminile, che prevedevano tutte queste danze etniche che provenivano da varie culture, da vari paesi. Queste sono essenzialmente le danzatrici che hanno collaborato in questi anni. Naturalmente le ultime poi sono state queste il 21 di dicembre, e sono le ragazze di Arte Danza e le nostre nuove amiche che hanno fatto Gli Angioletti e Le Case di Killarney nei due numeri di scena che appunto abbiamo vissuto il 21 di dicembre. Lo hanno fatto loro e spero di non aver dimenticato nessuno. In realtà come danzatrici sono queste le nostre amiche ormai. Hai citato il 21 di dicembre, ci entriamo perché siamo in giorni di feste di sapore natalizio. Allora ci introduciamo musicalmente a questo momento anche con l'atmosfera. Questa si chiama Ninna Nanna del Fiume. Dormi tranquillo, oh mio dolce amor, il fiume ti cullerà. Fa che il mio canto ti resti nel cuor, insieme a te crescerà. Scorri gentile per me, e grazie a te lui vivrà. Nelle mie braccia tu dormi, mio ben, sogni la tua libertà. Il cuor dice che salvo amor, il Siamo entrati anche nell'atmosfera tipica del Natale con questo brano appunto che Sara ci ha proposto, Ninna Nanna del Fiume. Siamo sempre appunto con Sara e con Ezio, Associazione Ombre di Luna. Arriviamo tra poco allo specifico del recentissimo spettacolo natalizio Voci di Stelle, andato in scena al Teatro di Villa Guidini di Zero Branco, ma ovviamente Natale, Ezio, è sempre occasione per proporre spettacoli, concerti, e voi a Udine, che è la tua città, ne avete fatti un paio. Sì, ne abbiamo fatti credo tre, se non ricordo male. Sì. Comunque l'esperienza più forte è stata quella del carcere maschile di Udine. È stata davvero un'esperienza molto intensa per tutti noi, anche per me, che già in parte conoscevo quella realtà, in quanto io ho un impiego come centralinista nel settore penitenziario. Però un conto è lavorare dietro una scrivania, un conto è entrare fisicamente nella struttura della casa circondariale. Ricordo d'essere stato parecchio impressionato da tutti quei cancelli, tutte quelle chiavi, e apri e chiudi gli agenti che continuamente ad ogni passaggio continuavano ad aprire e a chiudere questi cancelli, l'ambiente stesso che incuteva soggezione. Solo che poi la musica ha fatto il miracolo. Una volta che abbiamo cominciato a cantare, poi la tensione è svanita e sembrava di essere al di fuori di quelle quattro mura, al punto che mentre facevamo le prove io stavo proponendo dei vocalizzi e facevo cantare, e c'erano con me Sara e Samantha, un'altra nostra compagna di Ombre di Luna, e per riscaldare la voce stavo facendo cantare delle frasi, una per ogni vocale. Arrivati alla I, senza pensarci, ho fatto cantare che bello stare qui, e in quel momento credo che Sara e Samantha mi abbiano letteralmente fulminato. Poi è cominciata la celebrazione liturgica, che noi abbiamo animato con alcuni canti natalizi, e alla fine di questa celebrazione i detenuti sono venuti uno ad uno a ringraziarci e a stringerci la mano, e in quelle strette di mano, che erano tutt'altro che formali, c'era tutta la loro gratitudine e la loro riconoscenza per aver condiviso con loro un'ora di gioia e di serenità. Una bella esperienza, e poi ne avete appunto fatte altre, ma il tempo qui avanza, per cui restiamo, Sara, nell'atmosfera natalizia. Arriviamo alla recente realizzazione appunto di Voci di Stelle a Zero Branco, sabato 21 dicembre, un evento che voi avete definito concerto girovago tra mito, sogno e realtà. Prova a spiegarci. Perché, sarebbe la domanda del conduttore, perché abbiamo... Anch'io non mi attengo sempre al copione, ha ragione, improvviso. Ha ragione, conduttore, improvvisiamo, è bello che sia anche così. Noi abbiamo proposto il Natale girando il mondo, cioè noi sappiamo che le tradizioni natalizie sono diverse nel mondo, ci sono tanti paesi, tante culture. Ne abbiamo prese alcune e portando sul palco le canzoni, le danze, i momenti, le coreografie e le atmosfere tipiche di quel paese, di quella cultura. Per cui siamo partiti dall'India, quindi dalla culla un po' del popolo gitano, e molti non sanno che il popolo gitano in realtà viene da lì, e anche la natività, così mi impappino, così anche questo è molto più, no? È molto live. È molto live, ecco. La natività gitana viene dall'India, appunto nasce lì, ed è bellissima da vedere e da ascoltare. Siamo passati quindi alla Spagna con il flamenco, con i villancicos, che sono le canzoncine, le filastrocche tipiche del Natale. Poi siamo arrivati in Irlanda, in Scozia, per tornare poi in giù verso l'Africa, verso i gospel, gli spiritual, i canti degli schiavi. Quindi siamo andati dall'Africa all'America, poi siamo tornati in Russia con una favola nordica, e ecco che si intrecciano le leggende, le storie vere alle favole, come in questo caso appunto questa storia russa che parla di due principesse malate che sono diventati angeli, fino a tornare al popolo di Betlemme con con Vedrai Miracoli, che è una canzone tratta dal Principe d'Egitto, che è il cartone animato della Walt Disney uscito un po' di anni fa, e che noi abbiamo animato pensando anche alla natura che si muove nel Natale. Uno dice: cosa c'entra la natura col Natale? Pensiamo a tutti gli alberi di Natale, no? Sono un popolo anche quello. Quindi abbiamo voluto in qualche modo rendere omaggio sia alle altre culture, perché viviamo in un mondo multietnico, dobbiamo essere tutti tolleranti, dobbiamo imparare la tolleranza e la condivisione. Questa è una cosa che noi teniamo molto a dire e anche a fare. Quindi i nostri spettacoli hanno sempre un fondo di, ci piace usare questa parola, di condivisione. Ci piace collaborare con tutti, con persone anche dalle quali imparare, perché non sappiamo niente magari delle loro culture. E attraverso questo spettacolo abbiamo cercato di fare un regalo a loro, ma anche a noi stessi e al pubblico, e di vedere il Natale in modo più completo, anche divertente volendo, perché poi ci siamo divertiti molto anche con le canzoni occidentali, in realtà quelle un po' più conosciute magari. E allora, Sara, prima di arrivare ai grandi successi natalizi, partiamo da un inedito che avete proposto nella serata prenatalizia a Zero Branco, inedito di Ilaria Valent, cantano i Rainbow, Notte Santa. Dal live Voci di Stelle, Zero Branco, 21 dicembre 2013, erano i Rainbow, sulla musica inedita di Ilaria Valent, che è la pianista che ha dato una mano a questo spettacolo di Ombre di Luna. Sara, c'è qualcun altro da citare che ancora non abbiamo nominato per questo spettacolo? Vorrei citare Livia Zanini, che con alcune delle sue modelle e teste fashion si è occupata di un paio delle nostre coreografie. Poi abbiamo Gabriele Bergamo, che è il nostro co-regista digital scenography, si dice oggi, quindi la scenografia digitale, insomma, per tradurlo in italiano. Il service, Claudio e Michele, ovviamente il grafico, ma non soltanto Filippo, che ha fatto la parte grafica, tutti quelli che hanno lavorato dietro le quinte. gli alpini di Zero Branco, che con il loro grande cuore veramente hanno reso possibile questo evento, Franco e Barbara, che ci hanno allacciato con un nodo d'amore anche ad un progetto legato al Caffoncello, perché abbiamo donato dei libretti del nostro musical ai bambini ricoverati al Caffoncello proprio per questo mese di dicembre, anche grazie a loro. Per cui io spero di non aver dimenticato nessuno, perché veramente sono in tantissimi, e a tutti va un grandissimo grazie per tutto quello che hanno fatto con noi e per noi. Ancora musica, ancora natalizia da questo spettacolo Voci di Stelle, concerto girovago tra mito, sogno e realtà. I Rainbow con te, Sara, hanno cantato sabato 21 Vedrai Miracoli. La Star e i Rainbow live dal Teatro Villa Guidini di Zero Branco, voci di stelle, protagonisti Ombre di Luna, l'organizzazione e la regia di questo spettacolo. Siamo con Sara Ezio, che tra poco saluteremo, ma andiamo subito con un altro brano inedito proprio di Sara, con la musica di Claudio Banzato e di Barbara Marchiori, una favola nordica sul tema del Natale. Si chiama, e non sbaglio la pronuncia, Angelo. Stage, Atmosfera natalizia, non stancano mai i classici di Natale e insomma quando si ripropongono anche in questo periodo, anche se sappiamo che comunque le sentiamo in varie salse, fa sempre piacere. Con le voci di Sara Barbara, l'associazione Ombre di Luna, che hanno proposto questo spettacolo Voci di Stelle sabato 21 dicembre al Teatro Villa Guidini di Zerobranco e che abbiamo proposto appunto direttamente dal live. Prima del gran finale, io ringrazio Sara e Ezio per essere stati qui. Progetti in cantiere? Progetti in cantiere, vorremmo partecipare il prossimo 31 maggio in Abruzzo alla settima edizione di Suoni Condivisi. È un festival riservato ad artisti con disabilità. Non so ancora cosa porteremo, forse una riduzione di Mi chiamo Luna. E se mi permetti, prima di salutarvi, io vorrei salutare una persona speciale, amica qui di Blu Radio Veneto. Ci tengo a farlo perché è anche una mia cara amica. Io la chiamo la zia Jesi ed è nient'altro che la vostra Gesuina Maccari. Certo. Grande personaggio. Ciao Jesi. Grazie Ezio per essere stato con noi. Allora buon ritorno a Udine. Mandi si dice così? Si dice esattamente così. Mandi a tutti e buon 2014. Grazie a Ombre di Luna, Sara, Ezio e tutti gli altri. Chiudiamo con Holy Night, Sara Barbara e l'accompagnamento di Ilaria Valent. Ancora a tutti auguri. Long lay the world in peace. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Blue Time.